movimento verso il giovedì, venerdì, sia lo sbarco sia l'episodio del generale Liardi, credo di ricordarmi che avvennero appunto il giovedì di quella della settimana che era cominciata col 7 giugno. Il movimento si andava esaurendo, come sempre, o un movimento si generalizza o è destinato a soccombere, a spegnersi. E noi cercammo di prolungarlo quanto più fu possibile, lo prolungammo appunto per 7 giorni, e al settimo giorno decidemmo che i lavoratori tornassero al lavoro, gli operai tornassero al lavoro, che lo sciopero fosse considerato terminato e il movimento restasse così, come un inizio, come un esempio, come una manifestazione di forza quale era stato. Enrico Malatesta poté lasciare Ancona, rifugiarsi prima a San Marino e poi da San Marino poté raggiungere Londra, dove rimase per alcuni anni in esilio. Io fui arrestato assieme ai dirigenti locali, segretario della Camera del Lavoro, eccetera. Il nostro processo fu celebrato alla Corte d'Assisi dell'Aquila, credo che si sarebbe concluso con delle condanne molto severe, ma era scoppiata la guerra. Problemi erano completamente spostati, insomma, il tiro non era più quello dei fatti della settimana rossa, e del resto nei primi giorni di gennaio ci fu la solita amnistia che viene sempre dopo fatti di una grossa portato, almeno avveniva sempre, perché poi col fascismo non fu più così, e quindi il processo venne troncato prima che i giurati dessero la loro sentenza. Così la settimana rossa fu certamente, appunto, come dicevo all'inizio, un po' il punto culminante di questa contestazione dei primi 15 anni del secolo, però fu anche il limite al di là del quale sopravvennero fatti completamente di altra natura. Era scoppiata la prima guerra mondiale, e si poneva il problema dell'intervento o della neutralità dell'Italia. Quindi uomini, gruppi, partiti si orientavano su temi di un diverso carattere, e direi anche che quel potenziale di rivolta che ha caratterizzato i vari movimenti di sinistra nel nostro paese, dall'attentato di Brescia fino alla Settimana Rossa, ormai trovava logicamente un altro sbocco: la violenza delle violenze, cioè la guerra.